urla, insulta, batti pugni contro la saracinesca, ma per Ahmed la giornata è già terminata alle 7 del mattino. Questa volta il forno ha chiuso i battenti presto, sotto i nostri occhi. Ahmed accusa il proprietario di vendere la farina sussidiata sul mercato nero. È andata male a tante donne in questo villaggio a 25 km dal Cairo, così come in diverse altre città. Alcune disperate piangono, non sono riuscite ad acquistare l'anelata pagnotta a prezzi calmierati. La crisi del pane sta mettendo in ginocchio milioni di egiziani. Da metà febbraio, nella calca davanti ai forni, sarebbero morte già 15 persone. Difficile spiegare come si possa morire per il pane quando il paese sta vivendo un boom economico. Ma lo spettro di un'inflazione che rischia di divenire incontrollabile minaccia la crescita. Il 40% della popolazione vive in condizioni di povertà. Non sanno che a Chicago i prezzi sul grano sono ai massimi da 20 anni e ignorano che l'Egitto è il secondo importatore al mondo. Vogliono, anzi, esigono pane. Il prezzo di quello sussidiato è mutato da 20 anni. In un paese dove la pagnotta si chiama Aish, che significa letteralmente vita, quasi a sottolineare la centralità dell'alimento nella dieta nazionale, un governo può anche cadere per una questione di pane. Roberto Bongiorni, GR24, Il Sole 24 Ore, Il Cairo.